La vita in un film di Franco D'Assisi. Era la prima volta che rimanevamo da soli e te. I primi giorni eri stata coi nonni. Io pensavo che non ce l'avrei fatta. Avevo troppa paura. E tu eri così piccola. La giornata era orribile, faceva un freddo cane, c'era vento. Io non sapevo che cosa dirti. Per un attimo quella mattina ho pensato che il mare ci avrebbe portato via. Che la nostra storia sarebbe finita qui. E mentre ero piegato su di te con la schiena bagnata, mi sono reso conto che ero rimasto solo io a proteggerti. Luca Argentero, protagonista della vita in un film, in questa prima puntata della nuova settimana. Una buona serata da Franco D'Assisi, il nostro programma quotidiano sull'identificazione fra la gente e il cinema. Prosegue con appunto il tema della paternità. Quale padre del cinema vi ha ricordato magari vostro padre, o in quale padre del cinema vi siete riconosciuti proprio come papà? Questo è un po' il tema e la domanda che rivolgiamo ai nostri ascoltatori nella puntata di oggi. Come sempre il nostro centralino è già aperto, 800 24 00 24 per partecipare alla vita in un film, e qui ci sono biglietti per il cinema che vi aspettano, quindi un motivo in più per cercare di chiacchierare in questa mezz'ora proprio di questo rapporto, questa figura, la figura del padre, che il cinema ha trattato tante volte con tagli e sfaccettature diverse, ora drammatiche, ora comiche. Noi abbiamo voluto scegliere anche e farvi ascoltare durante questa trasmissione i film che hanno invece parlato proprio del padre in termini quasi più umani e sentimentali, magari non calandoli realmente in una situazione drammatica o in una situazione forzatamente comica. E quindi un manipolo di film nei quali viene fuori il padre, nel quale il padre fa il papà, cerca in qualche modo di proteggere, di istradare il figlio, e sentiremo nel corso di questa trasmissione un po' di questi esempi che abbiamo tirato fuori. All'800240024 invece vi chiederemo appunto in quale padre del cinema avete identificato un pezzo del vostro percorso, della vostra vita. Come dicevamo, Luca Argentero, lo avete sentito raccontarsi proprio, raccontare questo suo primo impatto con questa piccola bambina che nella storia appunto di Solo un padre nasce con un dramma, nasce perché al momento della nascita muore la madre, e questa scelta drammatica a cui si trova di fronte il personaggio di Luca Argentero segna ovviamente tutto il seguito della sua vita, ma segna anche una dedizione a questa bambina che è davvero totale, di un uomo, di un giovane uomo, in questo caso un ragazzo padre potremmo chiamarlo, che fino a quel momento forse non aveva ben capito di cosa si trattasse. E voi che ci state ascoltando, la paternità che magari avete provato è esattamente quella che vi aspettavate? L'avete rivista in qualche film? La figura del padre che avete forse anche mitizzato tante volte, quella dei nostri genitori appunto, è una figura che avete rivisto in qualche pellicola? 800 24 00 24 è il numero qui di Radio 24 per potercelo raccontare. Noi intanto cominciamo a sentire proprio Luca Argentero che abbiamo intervistato e con il quale abbiamo chiacchierato appunto e di questo film Solo un padre e anche del suo rapporto con questa situazione, con questa condizione, quella appunto della paternità. Sentiamo Luca Argentero quindi raccontare il suo personaggio nel film. Carlo è un giovane trentenne, ha una figlia piccola, è un dottore, una persona che vive una apparente normalità, una apparente tranquillità, una vita decisamente serena, a parte il fatto che è un padre singolo e che quindi è costretto ad affrontare le difficoltà del crescere una figlia da solo. La storia del film è il percorso che questo padre fa nel riscoprire la sua capacità di amare. Il titolo, il film è tratto da un libro che si chiama in inglese Perfect Skin, quindi pelle perfetta, perché Carlo questa apparente normalità e tranquillità, insomma, la maschera con una, insomma, appunto, metaforicamente una seconda pelle, nascondendo invece quelli che sono i suoi problemi, insomma, l'essere un genitore da solo. La notte che abbiamo concepito Sofia in casa nostra non ci abitava più nessuno. Io e Melissa ci eravamo lasciati. Non vivevamo più insieme da mesi. E ci eravamo dati appuntamento per parlare di cose pratiche. In quei 9 mesi abbiamo cercato di ricostruire tutto intorno a quella notte, ma non abbiamo fatto altro che litigare. Non sapete quante volte ho camminato per casa mentre Sofia dormiva. Ho pensato che se fossi stato più coraggioso, se l'avessi lasciata andare, me ne sarebbe ancora qui. non ci sarebbe la mia bambina, no? Scusate. Luca Argentero, Carlo appunto in Solo un padre racconta così questo dramma, questa scelta, questa quasi casualità capitata che poi ha portato appunto lui a cambiare la sua figura in quella di padre. Padri quindi di fronte a un dramma in questo caso, 800 24 00 24, ma anche padri invece che cercano di sdrammatizzare le situazioni più incredibili nelle quali forse sarebbe quasi impossibile pensare appunto a sdrammatizzare. Invece ci prova Roberto Benigni nella Vita è bella, ricordate questa figura, questo rapporto con questo bambino che il personaggio di Benigni cerca di coprire da qualsiasi possibilità che possa appunto capire in quale drammatica condizione si stia trovando. Abbiamo estratto un passaggio della Vita è bella davvero straordinario, nella quale, giocando, il papà Roberto Benigni mette in burla un pochino la situazione più drammatica della storia. Sentiamo. Che ha detto? C'è uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Chi sei, il tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! 1000 punti. L'avevo detto, chi si diverte? Straordinario Roberto Benigni nella Vita è bella. Noi abbiamo il primo ascoltatore in linea all'800 24 00 24 qui alla Vita in un film, Francesco da Arezzo. Buonasera Francesco. Buonasera. Allora Francesco, parli forte perché sentiamo un po' di sottofondo. Quale padre lo ha colpito, insomma, nella storia del cinema? Mi ha colpito molto il padre Giuseppe, non so se si ricorda nel nome del padre. Assolutamente, un grande Pete Postlewhite, un attore straordinario. Beh, lì però un film, anche lì, un contesto veramente drammatico. Molto drammatico, sì, infatti. Però mi piace molto il fatto che mi ricordava il mio, soprattutto per alcuni aspetti. L'aspetto dell'onestà, del senso del dovere e del non arrendersi mai. E andare avanti con semplicità, veramente incredibile la cosa. E allora, con questa descrizione di un padre del cinema, Francesco D'Arezzo si porta a casa il cofanetto Wazoo 5 serate di grande cinema da poter spendere durante la prossima stagione, ma ci sono altri biglietti che vi aspettano. La vita in un film. La Vita in un film prosegue. 800 24 00 24 è il numero di telefono dove chiamare per intervenire a questa nostra puntata dedicata al tema della paternità nel cinema. In quale padre vi siete riconosciuti, se siete padri, e in quale padre avete riconosciuto magari il vostro padre nella vita? Quale papà del cinema vi ha fatto l'impressione maggiore? Insomma, domande che appunto vertono su questo tema. L'800 24 00 24. Noi andiamo avanti intanto a sentire Luca Argentero, che da protagonista di Solo un padre, film uscito in questa stagione, anche un discreto risultato anche di pubblico, è un po' il film che abbiamo scelto a simbolo di questa condizione. Allora, Luca Argentero, che ha interpretato il ruolo di Carlo, appunto questo ragazzo padre, senza essere davvero papà, che tipo di difficoltà può avere provocato questa situazione? Sentiamo. L'idea di provare ad immaginarsi padre senza esserlo nella vita reale è decisamente una fonte di preoccupazione, perché non hai parametri anche per confrontarti con le persone che ti stanno intorno, per cercare informazioni. Non, per ogni singolo genitore avere un figlio è un'esperienza completamente diversa e stravolge le loro vite in modo molto soggettivo. Quindi anche fare, insomma, avere un feedback rispetto a reperire materiale su cui lavorare è un po' difficile. Per fortuna il regista è un giovane padre, quindi ha dato molto la sua visione insomma, di questo rapporto, e dall'altra una mancanza di confidenza mia personale con i bambini, perché non ho avuto esperienze di questo tipo con cuginetti piccoli o con figli di amici, insomma non ho avuto grosse esperienze, e quindi me la sono dovuta creare questa esperienza. Però mi dicono che il risultato è buono, che sembro un buon padre, quindi che ho delle ottime potenzialità come genitore. Vieni da me, fagiolino. Andarci? Sì? Vale. Sai che non ti somiglia per niente? Meno male. Però è vero, non somiglia veramente a nessuno. Neanche a tua moglie? No. Ecco, quella meglio di no. Perché? Piena di grassi saturi, Camilla. Ma dai. Le fa malissimo. Ma le piace da morire. Amore. Guarda che faccia che fa. Traditrice, mangi la focaccia. Allora come ci vedi insieme? Direi che te la cavi benissimo. Un padre moderno, un padre un po' bio, potremmo dire, che si preoccupa dei grassi saturi nella focaccia per la bambina. 800 24 00 24 è il numero di telefono per partecipare a questa puntata della Vita in un film. Abbiamo in collegamento Paolo da Roma. Buonasera Paolo. Buonasera. Allora, che padre del cinema vuole raccontarci? Ma un papà che si è messo molto in discussione, nel senso che a me ha colpito e devo dire molto emozionato, pur trattando un argomento apparentemente all'inizio, come dire, parlando di danza, potrebbe sembrare frivolo, ma Billy Elliot, il papà di Billy Elliot è veramente un papà che si è messo in discussione, quindi è scioccato dalla bravura e dal dato di fatto di un figlio quasi straordinario, insomma. Effettivamente il padre di Billy Elliot ha un percorso, parte come una figura assolutamente negativa, rifiuta l'idea che il figlio possa appunto danzare, e poi però ha un percorso di come dire, proprio di avvicinamento all'anima di suo figlio, all'anima vera di suo figlio, diventandone forse quasi il primo fan. Assolutamente. Beh, diciamo che in questo caso, a differenza di Argentero, io sono papà per due volte da pochi mesi per la seconda, appunto, quindi è un'eterna, come dire, ci si mette sempre in discussione, quindi quello è un esempio da seguire. Grazie, allora Paolo da Roma, biglietti per il cinema anche per il nostro ascoltatore, per questo inverno, quest'autunno, chissà, per andare a vedere al cinema i nuovi film della stagione che sta per aprirsi. C'è anche un altro ascoltatore che non ha voluto intervenire, un po' timido forse, ma ci ha segnalato un altro padre che, pur stando dalla parte fra virgolette sbagliata, ma neanche tanto fra virgolette sbagliata, della barricata, cioè un gangster, quindi in questo caso possiamo dire che è la parte sbagliata, fa una scelta straordinaria di protezione del proprio figlio, cioè cerca di farlo vivere con insegnamenti totalmente diversi, quasi sdoppiando la sua figura di padre rispetto a quella del mestiere, ecco, che fa. Stiamo parlando di Era mio padre, un film straordinario di qualche stagione fa, con un grande Tom Hanks, un finale incredibile, ce l'ha segnalato Bruno da Torino. Noi abbiamo preparato una clip di Era mio padre, sentiamo. Tutti credono che io sia cresciuto in una fattoria, e forse in un certo senso è vero, ma avevo già vissuto mille vite in quelle 6 settimane nell'inverno del 1931. A chi mi chiede se Michael Sullivan era una brava persona o solo un poco di buono, io do sempre la stessa risposta. Dico soltanto: era mio padre. Era mio padre, il film di Sam Mendes. E noi andiamo avanti con un altro ascoltatore all'800 24 00 24, Walter da Pavia. Buonasera Walter. Buonasera. Che padre ci racconta? Allora, il padre Will Smith nel film di Muccino, Alla ricerca della felicità. Straordinario, sono d'accordo con lei, è un padre di quelli che rimangono davvero impressi, perché è un padre tosto che cerca in tutti i modi di non far pesare sul figlio le difficoltà della vita. La situazione drammatica, ecco, in questo, pur se il contesto storico ovviamente è totalmente diverso, però ricorda un po' il tentativo di Benigni nella Vita è bella, quello sì, di, esatto, di tenere il bambino lontano anche se si trovano a dormire in un sottoscala, però esatto, cercare un po' di rendergli la vita per il più possibile normale, ed è uno sforzo straordinario soprattutto per le condizioni in cui avviene, no? Sì, esatto. Poi alla fine, fortunatamente, in questo caso riesce al meglio, diciamo che la sua vita ha maggiore fortuna. Beh, ecco, sì, la sua vita ha svoltato assolutamente in positivo. Grazie a Walter da Pavia, 2 biglietti per il cinema anche per Walter, e noi andiamo avanti con le nostre clip, i materiali che abbiamo preparato per raccontare la figura paterna nella storia del cinema. Saltiamo a tempi più recenti, ma un personaggio che ormai è radicato nella storia del cinema, quello del pugile per eccellenza Rocky Balboa. Nel 2006 Sylvester Stallone ha realizzato una sorta di ulteriore sequel di questa saga cinematografica, un film a mio modo di vedere molto bello, tra l'altro con un grande e struggente senso della fine, della disillusione, della fine del sogno americano. E in questo film Rocky Balboa vive gestendo, insomma vivacchia potremmo dire, gestendo il suo ristorante, raccontando ai clienti le sue storie di pugile in maniera anche un po' patetica se volete, ma non senza dignità, e però gli si dà a un certo punto la possibilità di tornare sul ring. Il figlio è fermamente contrario, perché questo, ne è convinto, metterà in ridicolo Rocky e farà male anche a lui. Sentiamo un passaggio di questa querelle. Sai una cosa? Vivere con te non è stato facile. La gente vede me e pensa subito a te. E con quello che hai deciso di fare, adesso sarà ancora peggio. Vedrai, non succederà. E succede invece. Perché? Hai la tua personalità. Avere il tuo cognome è pesante. Sai, Robert, una volta ti misi qui nel palmo della mano, ti tirai su e poi dissi a tua madre: questo è il più bel bambino del mondo. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. L'insegnamento del padre Rocky Balboa al figlio nel film omonimo del 2006. Ci arriva un sms al 349-238-6666 da Sara, che ci dice: il padre più simpatico e dolce è stato quello di Orgoglio e Pregiudizio. Questo è il messaggio di Sara. Io vi ricordo anche il nostro numero di telefono, sempre aperto, 800-24-00-24. Noi andiamo a parlare ancora di padri nel cinema, con un passaggio di un altro rapporto padre-figlio struggente. Era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia risorgeva dalle sue macerie, il cinema italiano tentava una via nuova rispetto a quella dei telefoni bianchi e si inventava un film, Ladri di biciclette, un film che sul quale è assolutamente inutile probabilmente spendere altre parole, ma in cui un'altra volta il tema della paternità e del rapporto padre-figlio veniva calato in una situazione drammatica, anche se la guerra era finita, la povertà mordeva. Sentiamo. Non sarà mica volato. Non sarebbe la stata Nappi a minestra. E state zitto pure te. E mo che fai? Mannaggia. Anna, mo cammina. No, gioio. Anna, moglie via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire. Bruno. Andiamo, muovete. Ma guarda che razza tra i gattini. Andiamo. No, perché mi hai meritato? Perché te lo meritavi. Anna, mo cammina. No, non voglio venire. Vattene via te. Avanti, muovete. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettameli al ponte, non te muove. Capito? Vado a cercare quel vecchio. Ladri di biciclette, noi torniamo da Luca Argentero. La domanda che chiude quasi sempre, anzi sempre, la nostra trasmissione, chiediamo al nostro ospite: in quale film a sua volta si è identificato? Luca Argentero ci dà una risposta davvero sorprendente. Ma io sono tremendamente pischello, come dico ormai, soprattutto quando vado al cinema, e la mia identificazione più forte avviene sempre quando vedo un film di supereroi. purtroppo perché insomma, soprattutto in Italia sono cose che non si fanno, ma il mio sogno e la mia identificazione sarebbe quello di avere dei fenomenali superpoteri. C'è una frase di Spider-Man che io dico sempre per scherzare, che grandi poteri comportano grandi responsabilità, ed è una cosa in cui mi identifico molto. Beh, il mio sogno sarebbe avere un superpotere di qualsiasi forma o genere, o se no piuttosto un personaggio del futuro, cioè immedesimarsi in una storia di fantascienza, cioè provare a pensare, mi piacerebbe provare per finzione a essere, a far parte di un mondo che ancora non c'è. Se potessi scegliere, ti piacerebbe essere di più, che so, l'uomo ragno o essere l'Harrison Ford di Blade Runner? Questa è una sfida fra titani, non... E ripeto, secondo me avere un superpotere, poter provare la sensazione di avere qualcosa che va al di là del normale potere umano, cioè, beh, Harrison Ford era insomma, aveva dei problemi più profondi, invece mi piace più il lato goliardico del superpotere. Ecco, e dovendone rubare uno ai tanti superpoteri straordinari dei supereroi, cioè quello che ti acchiappa di più qual è? Ultimamente, visto che insomma io fondamentalmente non me ne perdo uno al cinema, lo scheletro in adamantio di Wolverine non è male. Una specie di indistruttibilità, insomma, mi dava una sensazione positiva. I desideri sovrannaturali di Luca Argentero. Noi ci avviamo alla chiusura della nostra puntata. Abbiamo parlato di paternità qui alla Vita in un film. Vi diamo appuntamento a domani. Sarà nostro ospite Pierfrancesco Favino a parlare di ribellione. Quindi questo sarà il tema di domani. Io ringrazio Valeria Coffaro che mi ha dato una mano in redazione. Pietro Lacorte qui in regia. E vi lascio a un altro padre straordinario della storia del cinema italiano contemporaneo. Quel Ettore Scola Marcello Mastroianni, scusate, che nel film di Ettore Scola nell'89, che ora è, raccontava così la figura dei padri che si svegliano troppo tardi e capiscono troppo tardi quanto è preziosa questa figura. A domani. Hai ragione a prendermi in giro. Quando i padri vogliono occuparsi dei loro figli una tantum e tutto assieme, sono patetici. E si vorrebbero subito sapere tutto quello che non sanno da anni. Recuperare in fretta. Come certi studenti che durante l'anno non fanno niente e poi una settimana dagli esami. Hai ragione a prendermi in giro.